Quando mio padre venne a darmi la notizia, ormai nulla di speciale, è difficile spiegare. La paura non si annuncia mai prima di bussare, ma tutti quei traslochi da bambina fanno male. E se ci penso non ho avuto mai paura, ma ciò che vuol dire casa va oltre quattro mura. E ad ogni trasloco salutavo una parte di me, gli oggetti, gli affetti, un cuore non si crea da sé. A scuola sempre quella nuova, con l'accento strano, senza bussola, e invece il mondo aveva un piano. I ricordi come amici, i parenti più lontano, seduto al banco immaginando mio fratello lì a mio fianco. Ora esito se chiedono chi sono, una vita frammentata in 100.000 foto. Chiudere e aprire porte, ricominciare troppe volte, solo un paracadute mi sarei sentita forte. Chiudo gli occhi e salto fidando. Siamo funamboli, un filo teso stretto nelle mani degli angeli, e camminiamo sopra punti interrogativi, pregando che da questa vita ne usciremo vivi. Il segreto è non guardare giù, mai guardare in basso, contare il passo, ma non pensarci affatto. Trattengo il fiato e poi mi affiderò al tatto. Trattengo il fiato ancora ad ogni tuo abbraccio. Il tempo tiene il tempo, ballo sul ticchettio. Il problema è che ho dovuto dire troppe volte addio. Paura di abbracciarti, poi non sentirti mio. Doverti salutare, poi finire nell'oblio. Ciao ciao, come ho fatto ai giocattoli e poi le case. Come fanno i lampioni al giorno sulle strade. Non è colpa di mio padre se ho detto ciao a troppi amici. Ricordami come son fatte le radici. Chiudo gli occhi e salto.